quello piccolino, l'antenino, capito? Tanto però lasciarlo fermo. E si avvicinano, sono partiti i fusibili internamente, così hai detto. E io scappo. Infatti l'ho aperto, ho guardato, erano carbonizzati, è arrivato, lui ci vuole cura, giù dentro. Ha detto, ma è sta funzionando. Hai visto? Ah, è anche andata bene allora, dai. Certo che... Oh, ha fatto danno lì alle punti, alle punti ha fatto un bel danno, e a Giulio mi sembra che abbia bruciato l'alimentatore e due o tre baracchie, mi sembra, capito? A uno lo so, l'ha fatto un bel danno, cara. Capo, lo so, l'ho saputo di Giulio. Ero preoccupato, che a me, invece, di tu c'avevi lì, Trento, avevi lì, cosa fai? Ma che fai date per le possibili di protezione? Meno male. Hai visto là? E almeno sei tranquillo adesso, dai. Lasciala portarti un attimino fisso. Cioè, leggermente alternata però, leggermente, non disturba, però c'è un po' alternata. Oh, aspetta a vedere che cambio microfono. Non ha preso fuoco niente? Oh, ciao Arturo, buongiorno. Come va amico Franco? Dice che aveva bruciato tutto, invece l'ha bruciato solo il fusibile all'alimentatore. E beh, Fra, cambiato hai. Ehi, guarda questo. No. Qua non c'è alternata, ti mando Antonello, vai Antonello. Sto facendo bene Fra, una bomba proprio. Saluto comunque ho sentito io di tuono ieri notte, che so che sono stato toccato con PPL e i cambi di alimentazione. E stamattina in cucina Simone ha lanciato la prunga con la stufa, che ha pigliato fuoco la prunga. Attore, non ho capito niente, è troppo un po' troppo vicino al microfono forse, sì. Adesso bene va, forse perché è appena acceso. Perché così, la radio, infatti, perché quando sono salito, quel tuono forte era già successo, capito? E ho appena attaccato tutto. Infatti quella stamattina mi sono messo qua oggi, ho acceso l'alimentatore, ho trovato, ma tutto bruttito. E invece che era già il candillo. È andato bene, dai, Fra, si è andato veramente bene. Vai Antonio. È andato bene, sì. Temporali strani, prima tutta la notte piovendo, poi un tuono, dopo non ha fatto più niente. Purtroppo, altri immaginati, è un macello, ma quando si vede c'è temporale così, conviene distaccare tutto, capito? Dobbiamo distaccare tutto, magari a certo punto magari uno però non c'è, oppure è indisposto e magari non ci pensa, succedono queste cose. Però quando c'è temporale così, bisogna distaccare tutto, Antonio, se no è un macello, non si sa mai. Che già lo so, no, ma io distacco sempre tutto, i cavi ce li metto in terra, i PL se la bianco, prima li mettevo fuori e si riempivano di acqua, l'altro poi ce la lascio in terra, se scende, anche se metto i PL in terra, devo lavare la stessa. Vabbè, senz'altro, quando fare questa cosa, hanno tre cose che lo mantenga, c'è poco da fare, ok, ma c'è due, Franco! Forte sì però Fra, non si capisce bene uguale. Aspetta, va bene così? Ecco, così com'è? Adesso è migliorato. Ecco, vai, ho baciato il volume della amplificazione. Ok. Infatti stavo dicendo. Ho detto, non mi rimane un attimino quelli che mi metto a posto, che dopo non è più da pure virtualmente, vai a Tonè. Sì, a positivo. Quando arrivate qua con tuo padre non ci puoi fare niente. Cose che succedono sono. Ok. E beh, a Tonè, sapete sì o no? Ancora no. Zappando, non saranno. Vabbè, dico zappando. Niente. No, buon giorno. Fino a giugno non c'è nulla. A giugno lo dovevo chiamare. Sono stati gli altri, quindi prima quindi 6 mesi. Ma tocca a giugno a me. Allegria, bobo. Lascia mandare di veggia. Niente. Siamo andati più poveri sempre divertenti dai segnali. Capito, c'è il budget diminuito da 300 a 250, adesso sono scesi. E io ti vedo a favore dopo 250. Ma che problema la mia documentazione per l'aggravamento del bilancio di pensione, almeno sono tranquillo. E mi ha 250 euro al mese. Se ne hanno poche niente, Antonella, comunque meglio un piccolità che abbaiare il giallito. Beh, quello sì, il problema è che se dovessi pigliare la pensione per vivere, mi vedo lavorando in nero sopra un tetto, mi sbobbigliare tutto, e quindi c'è un culo lo stesso. Anche perché la gente sta diventando cane adesso, capito? Magari ti messo a parte il povero di guardi così, fai una segnalazione, quello sta meglio di me, si piglia la pressione, tac. Parlo lo sport, me lo piglia di tutto, fa la buona gargata. Lasciare dai, che sono andenti e peggiori in delle situazioni, capito? Come tu, pensa solo a un imprenditore, capito? Che prima io magari penso, però io riuscì a pagare bene l'operaio, a pagare tutti i superiori magari, e poi invece non riesci manco a pagare i contributi all'operaio, capito? Che l'assicurazione è più del stipendio, capito? Raddoppia lo stipendio. Per cui come ci fai un imprenditore a pagare le perdite? È un casino veramente così della frase. Per cui se non è per peggiorente, a migliaia venivano dei imprenditori che non riuscite più ad andare e sono tagliati tutto, così che trovano per il pulma isso. Sì, vabbè, a parte quello, ma il problema è che non riescono neanche a vendere adesso. Quanti ce ne sono appartamenti lì a Sassari 2 che non sono scesi? Sono più di 10-15 anni finiti che non riescono a venderli, perché non ci sono soldi, capito? In banca non te ne danno e quindi che dove va? Molto non le puoi mettere e quindi loro ce l'hanno dietro. Allora va a finire come gli spagnoli che diranno due case, prendi due e paghi una. I spagnoli? E stanno facendo così, prendi due e paghi una. Se tu guardi adesso le cose a Di Max dove diavolo l'ho visto, una villetta di 100 metri quadri con 2 ettari di terreno, loro volevano mi pare 30-40 mila euro. Insomma, la schiena comprare, io non le comprate più niente, perché il Tiger è arrivato a questo punto, non è possibile. Certo. Mi pare che in inglese non pare una cosa di diminuire perché si crescendi. Non si crescendo, crescendi, ma mi pare che le cose sono peggiorenti, in di, capitola. Tu prova a fermarti per scopo uno di questi giorni, ti metti vicino all'agenzia, quelle che vendono case, tipo Tecno Casa, qualche agenzia immobiliare, ti metti vicino, vieni, ti metti a guardare, esce subito la segretaria fuori. Che casa desidera, me lo dica, non c'è problema, ne abbiamo tutto quello che vuole. È una bella di questo programma, rimane. Certo, tutti i cifrati che ne danno, che non riusciamo più a pagare l'affitto, eccetera. Vedo che giudici che si buru. Ma il punto di marrevedere lo so, come ti fai uno? Paga l'affitto, caso non fa travaglio. Che non riesci manco a avere idea per mangiare, da mangiare i figli. Che tu ogni mese curi, mi pare così, ma curi, e cominci a pagare 700-800 euro al mese, e se non ti avvari, come ti fai? Al comune ti rivolgi 250 euro, dove te lo metto subito un appartamento 250 euro, ma non che non trovi qualche casa umida. Il budget non è più 350, adesso non è sceso a 250 il budget, quindi uno si deve arrangiare. Trovare una casa oppure fare la domanda alla casa popolare, ma siccome la stanno costruendo, quindi ci attacchiamo alla cosa, cioè perché ci attacchiamo. Ci sono 2500 domande lì alla come si chiama, anche l'ufficio per la casa popolare. Non riescono a cavarne i piedi perché adesso la gente sta facendo, come fanno fuori, come sanno che c'è qualche casa lì abbandonata in via Sulcis, che non hanno, il comune non ha ancora messo a posto, prendono e buttano giù la porta, entrano dentro e rimangono così. Oppure qualche scuola abbandonata, che ci sono. E buttano giù una porta alla stessa, rimangono dentro, fanno la residenza, la luce lì, boh. E il comune sta tranquillo che non li può neanche buttare fuori. Una tenda di affiliarsi, andassi da Piazza Italia, e la piazza è Piazza Italia, ma chi, lei mi discute pure la romantese, chi sul butto è? Ha un dì che deve andare, la persona non lo so, io capisco il tempo del giorno, boh. Oh, ancora noi. Oh, c'è colpa nostra, non siamo noi che i riportiamo, ma chi sa niente, cazzo. Delinquente, se andiamo a curare che cosa noi, dico si vuole detto, ci ricavare più, e di che furani, mamma, che adresse ragazzi, non li fanno mai niente, oh ya. In TV bisogna andare a chiedere, capito? Tu vai in televisione e si fanno subito vivi, capito? Ti offrono subito il lavoro, la casa, quello che vuoi, per se per le elezioni, quindi tutti quanti abbassano il culo per avere più voti e a fare così. Una volta che hai dato il voto vai e girami così, non ti conosco più, ti dico. E ti avrà comizio a me, amico mio, qua, capito? Ci può attaccare un gol romano nella bocca, Antonio, non sono atto, scusa. E a fai fai. Vabbè, Finocchio. Va a culo, ho visto in giro, sì. E non lo so dove sono. Non lo so, Danico, sì. E Danico sono io. Cappa. Aspetta, Stefano, stamattina hai detto di passare a pigliati da Grand Prix. Invece si è passato. Ma io ti ho detto, si vuole venire